La campagna è stata percepita come lontana dai problemi, è stato detto molte volte in questi giorni, e questi sono i risultati. E aggiungerei che comunque c'è una tendenza da anni a una riduzione della partecipazione al voto rispetto ai nostri standard, che erano particolarmente alti, particolarmente legati ancora, diciamo, al ricordo delle grandi contrapposizioni ideologiche del passato. Adesso ci siamo avvicinati in maniera piuttosto brusca agli standard europei, che sono invece molto più bassi. Ricordo che in Francia è stato particolarmente alto l'astensionismo in Francia, però ha votato il 53%. Noi, se fossero confermati i dati che tu leggevi adesso, saremmo intorno al 63%, cioè 10 punti in più, bassissimo per i nostri standard.